questa serata, questa iniziativa organizzata dalla Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta. Mi chiamo Patrick Curru, lavoro come bibliotecario alla biblioteca che trovate qui al piano terra. E questa sera abbiamo una serata dedicata alla poesia. La biblioteca organizza diverse serate legate alla poesia. Non più tardi della metà del mese scorso abbiamo organizzato un poetry slam, quindi una sfida all'ultima poesia, che ha avuto un grande successo. È una serata che vorremmo ripetere all'aperto. Ci piacerebbe organizzare di nuovo questa sfida al Parco dei Cappuccini qui fuori, quindi per chi fosse interessato quest'estate ci stiamo immaginando una nuova sfida, quindi manderemo a chi vuole lasciare il suo indirizzo email, a chi vuole iscriversi, la notizia e l'avviso di questa nuova iniziativa. Ringrazio chiaramente l'autore di essere venuto qui, è la prima volta che lo invitiamo come biblioteca, quindi qui al Centro Trevi. Ringrazio anche il dottor Marchioro, che invece ha, diciamo così, abbiamo presentato molti libri insieme, quindi è un amico conosciuto alla biblioteca provinciale e al nostro pubblico. E so che i libri dell'autore saranno in vendita alla fine della serata, quindi qui c'è il tavolino, chi vuole poi si può rivolgere alla persona di riferimento. Noi anche come biblioteca abbiamo le due pubblicazioni dell'autore, chi volesse prenderle in prestito può ritornare poi nei prossimi giorni e prenderle appunto in prestito. Io prima di lasciarvi vi ricordo solo il nostro prossimo appuntamento, che sarà martedì 9 aprile. Saremo di nuovo qui, sempre in questa bella sala, sempre alle ore 18. Chi fosse interessato, è l'ultimo appuntamento del Caffè Philosophique, un appuntamento molto, molto conosciuto, molto anche frequentato, l'ultimo appuntamento dove avremo la presentazione di un libro di Francesca Izzo, e il libro si intitola Le avventure della libertà, dall'antica Grecia al secolo delle donne. Quindi chi fosse interessato può venire, l'ingresso è libero, può venire qui martedì prossimo alle ore 18. A me non resta che invitare l'autore, il dottor Marchioro, e abbiamo anche un accompagnamento musicale questa sera, quindi saluto anche il chitarrista. Ho sentito prima una bellissima melodia che accompagnerà le poesie questa sera, quindi sarà una bella serata. Io vi ringrazio ancora di essere venuti qui e vi auguro ancora una volta un buon ascolto e una piacevole serata. Grazie. Grazie per l'ospitalità e un benvenuto a chi partecipa a questa serata di poesia. Presentiamo appunto questa sera il secondo libro di poesia di Lino Pasquale Cacciapaglia. Il Sud permea la sua esistenza, la Puglia terra d'origine, come pure l'Alto Adige e Südtirol, luogo di elezione, o l'Andalusia, spazio di fascinazione. Oltre ad Azzurra, che è il libro che presentiamo qui, edito da Weger nel 2018, Lino Pasquale Cacciapaglia ha pubblicato nel 2011 con la stessa casa editrice Esisti Sole, un libro che ha riscosso lusinghiere affermazioni, e nel 2016 ha curato la raccolta L'altra parte del sole con la Lunigiana dantesca. Azzurra è già stata presentata al Festival di Letteratura Il Libro Possibile di Polignano nel luglio 2018, alla Facoltà di Lettere all'Università di Siena nel novembre del 18, alla Biblioteca di Merano sempre nel settembre 18, dove appunto Cacciapaglia vive e insegna, al Liceo Linguistico di Bari un mese fa, e nel luglio del 2018 sull'Alpe di Siusi, dove teniamo annualmente il nostro reading Silenzi d'Alpe. È membro dell'Associazione Scrittori dell'Alto Adige, della Dantesca Compagnia del Veltro, e si dedica alla poesia per pura passione. Animatore culturale, ama farsi interprete della poesia propria e di altri autori, soprattutto di John Keats, il poeta della verità, dell'immaginazione. E proprio legandomi alla poetica di Keats, dirò due breve cose su questo libro. In Cacciapari riveniamo una spiccata predilezione per la poetica di Keats. Una cosa che è della bellezza, scrive Keats, è una gioia per sempre, mai trascorrerà nel nulla. E riprende Cacciapaglia, in azzurra, figlia dell'inesausta bellezza, una mimosa. A trattenere la bellezza al di qua del nulla è per Cacciapaglia e per Keats la rimembranza. La natura dell'uomo è legata alla memoria. Memoria intesa come quel grande oblio in cui consiste la tradizione stessa. Memoria deposito di immagini cieche. Memoria di cui il poeta chiede il risveglio. Parafrasando un passo della lettera a Reynolds del 19 febbraio 1818, dove Keats si chiede come viene la parola al poeta, e risponde: naturalmente, non deve cercarla, deve piuttosto lasciarsi trovare. E Cacciapaglia si lascia trovare fino all'abbandono. Rimembranza come emersione nell'abbandono del tempo, condizione in cui il canto arrende il poeta, come ad esempio in questi due o tre passaggi dell'opera. Ti vidi primavera nelle sparse colline toscane e nei colli di Roma, portavi il lento cammino dei prati. O ancora, mare posto sulle acque che dormiente dirompi, terra posta al cammino, espressomi, portami all'alba, recami all'alba. Nella sera del tempo, quando viene il vento, accolgo la voce sempiterna del mare. Ed ancora, esiste una strada d'inverno, si dispiega lenta, mi conduce. Esiste una strada d'inverno, da essa mi rampico ad una stella. Ecco. Al poeta dunque è necessaria non l'individualità, l'egotismo, ma la perdita. Non la memoria, ma l'oblio. Solo nell'oblio potrebbe veramente tornare nel suo andare e venire il canto originario. Solo così il poeta sarebbe poesia. Ma rimembranza di che cosa? Se dei boschi che alleggemmo nella notte dei suoni, plauso di ignomi presenze dove calici di fiori di genziana si rivelano al sole, mi portassi nei passi. Se dei muri che leggemmo nei meriti d'una origine, nella mattina dei rituali, mi portassi nei passi dove osi l'allegria, di zelo vestiremmo. Ecco, io concludo con in Cacciapaglia rimembranza si conica con spontaneità, con originalità. E qui il lavoro che l'autore conduce sulla parola nella ricerca dell'originario non mira alla riproduzione di qualcosa di passato, ma all'affiorare di un oblio che si traduce in vivo presente. E come afferma Keats, la mia immaginazione è un monastero e io ne sono il monaco. Così Cacciapaglia può scrivere in una sua poesia: io sono la stanza che avvista la rotta del cielo. Ed ancora, mi portai nella sera del vento nella città etrusca del silenzio, nel monastero del Vasari, orato dalle sorelle Clarisse, camminai e vissi l'allegria del cuore. Oppure il Cacciapaglia, custode del maniero di Lebenberger, cantore del segreto della donna del Tempio. Un segreto che lascio a lui svelarvi. Buon ascolto. Mi portai su un carro lento, come se trainato dannasino dolcemente. Dolcemente è un rudere a ridere all'avanguardia estenuante, e guardiano del tempo resta a vigilare un campo dolcemente. Dolcemente trasparente e indistinta la celeste notte, ora chiamata dalle stelle ed eletta a navigante del tempo. Dolcemente e silente. Nell'anno 2015 visitai l'isola di Malta, in particolare il tempio di Ajarin, e durante quella occasione avvertì la presenza di una donna nata oltre 2000 anni prima della venuta di Cristo, ma è stato solo un anno fa, grazie alla mia amica Luana, che mi disse: ma Dino, ma la donna, il tempio di Ajarin è un tempio dedicato alla donna. Scoprì solo un anno fa il tempio di Ajarin. Camminammo nell'isola dei cavalieri, dove il cielo ha vista il mare, dove lo stesso destino d'acqua ha vista i versi di un cielo dall'azzurra a volta, dove l'ardua torre di guardia porta l'andare di antichi naviganti. Sulla grande roccia, sorella ferma del Mediterraneo, si rende da vista il segreto da Ajarin. Sulla sacrale pietra, l'antica donna si indorava di fiori di mimosa. Nei prati del tempio, la mimosa svelava al vento la favola del tempo, lenta si levava nel tempo, desideroso sogno di un esodo di mimosa. Stanza d'ognuno, festa. presto nei tropi del sole. L'equazione di silenzio e armonia celestiale, quel silenzio che, se è nulla all'orecchio sensuale, costituisce di fatto il poeta. Il silenzio permette al poeta di parlare di ciò che assente e di partecipare adesso, trasformare il silenzio in un udito spirituale. E la parola poetica rende vitale le vicende di una lingua, e grazie alla poesia che la lingua non può assestarsi, perché la poesia desta, la poesia accende, la poesia rende presente che tutto ciò che è stato scritto è ancora vivo. E la poesia si nutre di sole, la poesia si nutre di amore, la poesia si nutre di musica e dei luoghi, o meglio, della consapevolezza dei luoghi che viviamo. Giugno, sabato, un anno fa, città di Merano, il fiume Passirio e sole. Il sole sembrava volesse cavalcare il fiume. Quel pomeriggio di sabato mi ritrovai, dopo qualche ora, nelle campagne marchigiane, con distese di campi di grano. E ricordo un campo di grano con migliaia e migliaia e migliaia di spighe di grano. Ma nonostante fossero i migliaia, in quel campo c'era un solo papavero rosso. E in quel campo sembrava fosse il re. T'ho visto sole discendere a cavallo di un fiume. Nell'estasi del sole d'estate sorride un fiore che al venir soave irrompe indistinto ad ognuno. Postosi nel ventre di una terra, ritempra il mare venuto dal vento, navigante d'ogni tempo, d'ogni sogno libero un mare. Nessuno può con chiarezza definire cos'è la vittoria se non lo sono. possibile definire il suo opposto. Cosa si oppone alla felicità? Alla felicità si oppone ogni forma di estremismo. Alla felicità si oppone non poter guardare oltre quel campo spinato, visi attoniti, tralasciati dal sorriso, dislocati nel campo di Dachau. A Dachau, dove la parola conobbe il silenzio, dove le umane lacrime conobbero il verso del pianto, impararono la vita nelle baracche di Dachau. A Dachau, dove l'acqua si spogliò della veste per i morti ed un fuoco s'apprestava nel nevrotico assentare la vita di solo ieri. La pistai venne dalla pioggia, una lumaca lenta si portava dove visse l'abbraccio comune. Quest'oggi andavo dai passi lenti, ascoltai il suono delle pietre. A voi, volati, affogliati dai rami di alberi, alati, allettati da fronde di alberi, chioccolate nel campo di Dachau, portateci al rimembro dell'odio viabile. Domenica di Pentecoste, a Dachau venne il sole. Ho dedicato la nostra azzurra a mio fratello Michele. Ho dedicato azzurra a Maria. Ho dedicato azzurra alla mia amica Alba, un'amica che non ho mai conosciuto. Ho dedicato azzurra al mio amico Ettore. Ho dedicato azzurra alla mia allieva Chiara. E così, poco prima dell'uscita del libro di azzurra, la decisione. In questi 2 anni di serate e di eventi, devolvere interamente ogni vendita di azzurra alla ricerca medica. E una mattina in un ospedale di maggio, la sala era aggrimita. Giungono una madre e una bambina. La bambina dal viso vispo, aveva 10 anni, ma un corpo visibilmente provato da quelle visite che non vorresti. La bambina dal suo viso vispo incomincia non curante a parlare alla madre. Dopo quello che ascoltammo, tutti avremmo voluto portarci verso quella bambina e abbracciarla nel maggio d'anni passati, dove vissi la giovinezza, quella creduta eterna. Una madre che mi portava alla regola, quella festosa, alla prima di ogni maggio mi diceva: maggio, adagio. E mattina di maggio, lui che muta adagio i suoi dintorni, che t'apre all'abito d'estate, che t'apre ad un mare di sera dove la quiete è tranquilla, l'udire dell'onda venire in un andamento lento. E mattina di maggio, in una sala di inviti protesi alla conoscenza, lì attendi un turno. Sedete una madre, sedete una bambina, di docile viso, di un docile corpo voluto da visite, quelle che non vorresti, digiuno di un miracolo. La vita provata a chiese un decennio. E silente la sala frescata. La bambina parlava da madre. Portati all'ascolto del suo soliloquio, vivemmo un tremore d'anima. Madre, ho freddo. Madre, le mie mani sono gelide. Madre, il mio numero di attesa è diverso dagli altri. Non siamo uguali, noi bambini. Come nella via del vento, il vento s'accorse del pianto del cuore. Volitivo volle il sole, volle scorgersi nella sala frescata e d'arancio si portò sul volto della bambina. In una mattina di maggio, che muta ad agio i suoi dintorni. E durante una mattina di settembre, l'anno scolastico era da poco iniziato. Chiara, la mia allieva, la nostra allieva, sempre amabile, cortese, elegante, mi vede, si avvicina, mi rimprovera, ma è un rimprovero che ogni insegnante gradirebbe ricevere. Pochi anni dopo, Chiara, in quella notte di gennaio, in quella strada coperta di cielo, esiste una strada d'inverno. Si dispiegava lenta, mi conduce a casa. Esiste una strada d'inverno che inopportuna mi distoglie dagli amori che vivo. Esiste una strada d'inverno che mi impedisce. Esiste una strada d'inverno, da essa mi arrampico ad una stella. Stelle che congiunte tessete la costellata via, estranea della tristezza, strana. Come i sarmenti di una vite ondulano le gemme impazienti, così mi vesto di una luce. Una poesia che è più visuale e una poesia più sonora, è la poesia della comunicazione, è la poesia dell'ascolto, perché la poesia cerca l'altro, la poesia vive il bisogno di comunione con l'altro, vive un senso di appartenenza con l'altro. La poesia si pone a livello del singolo senza fare alcuna distinzione. È il tempo di morire, lieve, come le mani mosse sono un manufatto di materia, così la parola scrisse il verso. In una piazza dove nel rimembro di un'epoca s'arenava il trabocco di un fiume, del fastidio, mille anni portata dal vento, la scrittura dell'amore, l'alba di sempre. L'alba di sempre è l'amore, una dismissione al tempo del gelo. L'alba di sempre è l'amore, un sorriso di un'anziana solerte nella solitudine che da una panca sinistra i suoi sguardi al giro dell'umano che vaga distratto nelle sere d'estate. L'alba di sempre è l'amore. Il sorriso ripercorre le sue vie nel volto di una bambina, nelle sue mani allegre, impazienti, un taccuino che l'annota della quiete d'estate, la distrae. L'alba di sempre è l'amore. Una pioggia che è desta, la distratta estate, ed estate mi spoglia d'ennesimi pensieri. L'alba di sempre è l'amore, un sole che madre, le scene di un mare, e la torre di guardia ispanica vigila l'onda, ed una dazia fortificata mondola di un tempo passato. L'alba di sempre è l'amore, un seme misero Kerr nel disseminato campo e dissa l'irrisorietà, smuove e la zolla si veste dell'alba di sempre l'amore. Io sono la stanza che ha vista la rotta del cielo. Dello scoppio della luna tu sei la danza sempiterna, egli è l'eleganza espressa, la privazione di vie assolute. Noi siamo un silente soliloquio della libertà del cuore. Ah, voi siete gli amanti dell'ambivalenza allegria. Ed il vento al zefiro mi testa al fior di magnolia, al color rosa dei campi, all'alba dei campi, al mar che anelavo. Mi rimembrano un rituale atteso, l'apoggio del sole. Essi sono inesausto sogno d'essere della primavera. Raccontare il mistero con la poesia. Il mistero è affascinante. Solitamente il mistero è donna. È di una serata di poesia nel Castel Marreggio a Bolzano. Di questo castello ancora oggi si racconta che nelle sue mura è possibile avvertire la presenza di una donna che disse durante il tempo dei monaci templari. Ed io questo lo posso confermare. Per la poesia che voglio mi porta in maniero dal medioevo una chiarezza di un fiume. Silenzio dell'ombra d'origine, a ti mancate dei vulcani, dove cozzi il lento silenzio. sensi dell'infinito. La nobile asprezza nera della pietra traina il rimembro della voce di Timanfall dei vulcani. Il bello naturale è che lì parla ciò che l'uomo non ha fatto. Di parla cioè un'allegoria che priva di ogni sottilità. Percorri, ascolta, passa e pascola. Percorri la via infante, genesi di inesausta valenza. E da aurora ascolta nelle fronde il canto sperato di un mare, che assommi melodia, veste d'ogni armonia, una banda di musici innati, d'altri merli. Ed ancora l'anima nostra si sveglia. Percorri il fiume dove ondula la bianca naiade ed ascolta la frenesia che ristora d'acque festose che scorrono nella merita ricerca. Ascolta il proteso venire dell'onda, voluta dalla carezza del vento. Percorri, ascolta, passa e pascola. La mariposa, arrendosi a via, si pone a via. La leyenda del sol, y poniendo alas alas, soñaba a los colores del viaje, a vivir su elegante torcido de vida. A la mariposa se abandonaba con confianza a la caricia del viento. Volvía. La mariposa leía las flores. Se le così silenziosa. A Torre Guaceto. La luce dà il bagno nel mare della sera. Una torre là vista la Torre Guaceto. Del cammino una riserva a innaturarsi. Sapre e cuori che vagano e le pietre si toccano. Sembrano baciarsi al profumo del sole. Sei sentiero sposo d'acqua, al suono di un rintocco toccato dal vento. Sono una campana che vigila lieta nei cuori e vibrarli con lei alla storia di una presenza. John Keats, il mio poeta guida, è il poeta per il quale la poesia, che è il suo valore più alto, viene comunque sempre dopo l'etica. Sono convinto che lo scrivere bene sia, dopo l'agire bene, la cosa più nobile al mondo. Una cosa di bellezza e una gioia eterna aumenta la sua grazia e mai trapasserà nel nulla. Adesso, se desiosa mi dessi a rosa d'inverno, io vivrei. Adesso, io, la desiosa stella del sovrano cielo, ti guardai. Messaggera alla giostra del tempo. Adesso, io, donna da Jain, se violassi l'immenta strettoia del rancore, librandomi ai cuori allegri e vivessi il sole dal manto da arancio, sposo alla luna. Agli innumeri suoni. Se per non le potessi e danzare sul vento mobile delle acque mi portassi, mi porterei negli ambiti tuoi, al prossimo. Quest'oggi è, insomma, ci vediamo alla prossima serata di poesia, o mattina o pomeriggio, insomma.